Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. «Conoscete la signorina Bartlett, nostra cugina?» disse amabilmente la signora Honeychurch. «L'avete frequentata a Firenze con mia figlia?» «Come no?» esclamò il signor Emerson, e già si incamminava verso il cancello per salutarla quando la signorina Bartlett salì prontamente nella Victoria, così trincerata, e mise un cerimonioso cenno del capo. Rieccò la pensione Bertolini, la tavola della sala da pranzo con le caraffe dell'acqua e del vino, e rieccò la vecchia battaglia della camera con vista. George non ricambiò l'inchino. Come avrebbe fatto ogni altro ragazzo al suo posto, arrossì e si vergognò. Sapeva che lo chaperon rammentava e disse «Sì, verrò a giocare a tennis se mi sarà possibile» ed entrò in casa. Forse qualunque gesto avesse compiuto sarebbe stato gradito a Lucy, ma quel suo impaccio le andò dritto al cuore. Gli uomini non erano dei, in fin dei conti, ma umani e maldestri come giovanette. Anche gli uomini potevano soffrire di desideri inspiegati e avere bisogno d'aiuto. A una ragazza come lei, con l'educazione che aveva ricevuto e col destino che l'attendeva, la debolezza degli uomini appariva una verità inconsueta, ma l'aveva già intuita a Firenze, quando George aveva gettato in Arno le sue fotografie. «Non andartene, George!» gridò il signor Emerson, che riteneva privilegiate al massimo le persone con le quali suo figlio era disposto a conversare. «Stamattina George è d'umore eccellente e sono certo che nel pomeriggio finirà col venire da voi!» Lucy colse lo sguardo della cugina. Nel muto appello che vi lesse c'era qualcosa che la rese temeraria. «Sì!» disse, alzando la voce. «Spero proprio che suo figlio verrà!» Poi si diresse verso la carrozza e mormorò. Il vecchio non è stato informato. Sapevo che non c'era motivo di preoccuparsi. La signora Honeychurch si incamminò dietro a lei e finalmente la carrozza si mosse. Che il signor Emerson non fosse stato informato della scappatella fiorentina era soddisfacente. E non di meno il morale di Lucy non avrebbe dovuto spiccare un salto come se lei avesse avvistato i bastioni del cielo. Soddisfacente? Sicuro. Eppure la sua reazione fu una gioia spropositata. Durante la corsa del ritorno, gli zoccoli del cavallo le cantarono di continuo un'arietta «Non l'ha detto, non l'ha detto». E il suo cervello ampliò la melodia. «Non l'ha detto a suo padre, mentre gli dice sempre tutto. Non fu una bravata. Non rise di me dopo che fui andata via». Alzò la mano. Vi appoggiò sopra la guancia. «Non mi ama». «No, come sarebbe terribile se mi amasse, ma non l'ha detto. Non lo dirà». Fu tentata di urlare le parole «Non c'è motivo di preoccuparsi, è un segreto fra noi due e durerà per sempre, Cecil non ne saprà mai nulla». Arrivò addirittura a compiacersi che la signorina Bartlett le avesse strappato la promessa del silenzio in quell'ultima cupa serata a Firenze, mentre facevano i bagagli inginocchiate nella camera di lui. Il segreto, grande o piccolo che fosse, era custodito. Solo tre inglesi ne erano a conoscenza in tutto il mondo. Così Lucy interpretò la propria gioia. Salutò Cecil con un sorriso di insolita radiosità da quanto si sentiva al sicuro. E mentre lui l'aiutava a scendere di carrozza, disse «Gli Emerson sono stati davvero carini. George Emerson è enormemente migliorato». «A proposito, come stanno i miei protetti?» domandò Cecil, che non provava per loro un interesse genuino e aveva dimenticato da un pezzo la sua decisione di condurli a Windy Corner a fini pedagogici. «Protetti!» esclamò Lucy con un certo calore, poiché l'unico rapporto che Cecil fosse capace di concepire era feudale, quello fra protettore e protetto. Non aveva la più pallida idea del cameratismo al quale anelava l'anima della ragazza. «Lo vedrai da te come stanno i tuoi protetti. George Emerson verrà nel pomeriggio. A parlarci insieme si scopre che è un uomo interessantissimo. Soltanto...» fu sul punto di dire «non proteggerlo». Ma stava suonando la campanella che li chiamava a colazione e, come accadeva spesso, Cecil non era stato molto attento ai suoi discorsi. Il fascino, non la discussione, doveva essere il forte della fidanzata. La colazione fu un pasto allegro. In genere a tavola Lucy era depressa, Bisognava sempre rabbonire qualcuno, o Cecil, o la signorina Bartlett, o un essere invisibile all'occhio mortale, un essere che bisbigliava alla sua anima. Non durerà questa allegria. A gennaio dovrai andare a Londra per ricevere i nipoti di uomini celebri. Ma stavolta Lucy ebbe la sensazione che le si fosse data una garanzia. Sua madre sarebbe sempre rimasta seduta su quella sedia, suo fratello su quell'altra. Il sole, quantunque si fosse un po' spostato dopo il mattino, non si sarebbe mai nascosto dietro le colline occidentali. Dopo colazione le chiesero di suonare. Quell'anno Lucy aveva assistito all'armida di Gluck ed eseguì a memoria il brano del Giardino Incantato. La musica che accompagna l'arrivo di Rinaldo sotto la luce di un'aurora eterna. La musica che mai cresce, mai cala, ma ondeggia in perpetuo come i mari senza maree del paese delle fiabe. Una musica simile non è adatta al pianoforte e il pubblico cominciò a innervosirsi e Cecil, che ne condivideva il malcontento, gridò: «Adesso suonaci il motivo dell'altro giardino, quello del Parsifal». Lucy chiuse lo strumento. «Non è un atto molto riguardoso», mormorò la voce di sua madre. Nel timore di aver offeso Cecil, Lucy si girò in fretta. C'era George, sgusciato silenziosamente nella stanza senza interromperla. «Oh, non immaginavo!» esclamò Lucy, facendosi di brace. Poi, senza una parola di saluto, riaprì il pianoforte. Bisognava accontentare Cecil col Parsifal, bisognava accontentarlo in ogni suo desiderio. «La nostra pianista ha cambiato idea», disse la signorina Bartlett, forse sottintendendo: «Suonerà per il signor Emerson». Lucy non sapeva cosa fare e neppure cosa volesse fare. Eseguì malamente alcune battute della canzone delle fanciulle dei fiori e smise quasi subito. «Io sono per il tennis», disse Freddy, disgustato dallo spettacolo sconnesso. «Sì, anch'io», e ancora una volta Lucy richiuse il disgraziato strumento. «Propongo che facciate un doppio uomini. Mi sta bene». «A me no, grazie mille», disse Cecil. «Non ho intenzione di sciuparvi il gioco». Non gli sarebbe mai passato per la testa che un cattivo giocatore potesse compiere un gesto gentile facendo il quarto. «Andiamo, Cecil», protestò Freddy. «Io gioco male. Floyd è una schiappa e scommetto che Emerson lo sarà anche lui». George lo contraddisse. «Non gioco male io». A quell'uscita si arricciarono i nasi. «Allora non gioco di sicuro», ribatté Cecil, mentre la signorina Bartlett, con l'impressione di infliggere un affronto a George, rincarava la dose. «Sono d'accordo con lei, signor Weiss. È molto meglio che non giochi, molto, molto meglio». Minnie, irrompendo sul terreno dove Cecil temeva di posare il piede, annunziò che avrebbe giocato lei. «Tanto non piglierò neanche una palla, e perciò cosa importa?» Ma la domenica intervenne e calpestò pesantemente la zelante offerta. «Allora tocca per forza a Lucy», disse la signora Hanechurch. «Dovete rassegnarvi a giocare con Lucy. Non c'è scampo. Lucy, va a cambiarti». La solennità domenicale di Lucy era per lo più di una natura anfibia così fatta. Lucy la osservava senza ipocrisia al mattino e la trasgrediva senza riluttanza nel pomeriggio. Mentre si cambiava d'abito si chiese se Cecil non si stesse beffando di lei. Occorreva sul serio che prima di sposarlo si esaminasse a fondo e sistemasse definitivamente ogni cosa. Ebbe per compagno il signor Floyd. «La musica le piaceva, ma com'era meglio il tennis», disse tra sé. «Com'era meglio correre di qua e di là in comodi indumenti che sedere al pianoforte e sentirsi le ascelle impedite. Una volta di più la musica le parve un passatempo da bambini». George servì e fu stupita dalla sua ansia di vincere. Lo ricordò che sospirava in mezzo alle tombe di Santa Croce perché le cose non volevano quadrare. Lo ricordò, dopo la morte dell'oscuro italiano, che si sporgeva dalla spalletta dell'Arno e le confidava: «D'oggi in poi vorrò vivere, le dico». Voleva vivere ora, vincere al tennis, stare ben saldo alla luce del sole che già cominciava a calare e le scintillava negli occhi. E George vinse, infatti. Ora però Cecil rivendicò i suoi diritti su di lei. Caso volle che fosse in vena di far della critica spassionata e per niente disposto a condividere l'altrui esaltazione. Dal principio alla fine della partita aveva dato noia ai giocatori perché il romanzo che stava sfogliando era così malvagio da costringerlo a leggerne qualche brano a voce alta. Girellava lungo il perimetro del campo gridando: Ehi, senti questa, Lucy, 3 iperbati di fila. Orrore, disse Lucy e fece doppio fallo. Anche quando ebbero finito l'ultimo set, Cecil continuò a leggere imperterrito. C'era la scena di un delitto e bisognava a tutti i costi che ognuno di loro l'ascoltasse. Freddy e il signor Floyd dovettero dar la caccia a una palla smarrita fra gli allori, ma gli altri due acconsentirono. La scena si svolge a Firenze. Che buffa combinazione, Cecil. Va avanti. Su, signor Emerson, si sieda dopo tanto dispendio di energie. Lucy aveva perdonato George, così si era espressa tra sé, e stabilito di mostrarsi amabile con lui. «La scena si svolge a Firenze», ripeté Cecil in tono di voce più acuto. Lucy si richiamò all'ordine. «Tramonto!» «Leonora camminava in fretta?» «Leonora?» interruppe Lucy. «Si chiama Leonora, la protagonista. Chi è l'autore del libro?» «Joseph Emery Prank. Tramonto. Leonora camminava in fretta nella piazza. Tramonto. Il tramonto d'Italia». Sotto la loggia dell'Orcagna, la loggia dell'Anzi, come talvolta la si chiama oggi di, Lucy scoppiò in una risata. «Joseph Emery Prank, bella questa! Ma è la signorina Levish! È il romanzo della signorina Levish e lei l'ha pubblicato sotto falso nome!» «E chi sarà mai la signorina Levish?» «Oh, una persona orribile! Signor Emerson, ricorda la signorina Levish?» E citata dal piacevole pomeriggio che stava passando, Lucy batté le mani. George alzò gli occhi. «Certo che la ricordo. La vidi il giorno del mio arrivo a Summer Street. Seppi da quella donna che lei abitava nei dintorni». «Non fu contento, Lucy voleva dire, di vedere la signorina Levish?» Ma quando George si chinò sull'erba senza rispondere, le venne il sospetto che avrebbe potuto voler dire qualcos'altro. Osservò la sua testa, che le si era posata quasi sul ginocchio, e le parve che gli orecchi stessero arrossendo. «Non mi meraviglio che il romanzo sia brutto», proseguì. «Non ho mai avuto simpatia per la signorina Levish, ma dovremo leggerlo, immagino, dal momento che la conosciamo». «Tutti i libri moderni sono brutti», disse Cecil, che era infastidito dalla disattenzione di Lucy e sfogava il proprio fastidio sulla letteratura. «Al giorno d'oggi tutti scrivono per denaro». «Oh, Cecil, è verissimo. Non intendo infliggervi ulteriormente la compagnia di Joseph Emery Prank». Quel pomeriggio Cecil sembrava un passero cinguettante senza sosta. Gli alti e bassi della sua voce erano notevoli, ma furono del tutto indifferenti a Lucy. Aveva vissuto in mezzo alla melodia e al movimento, e i suoi nervi non vollero saperne di rispondere allo stridore dei nervi di lui. Abbandonandolo al suo fastidio, posò nuovamente lo sguardo sopra la testa nera. Non desiderava accarezzarla, ma si vide nell'atto di desiderare di farlo. Fu una sensazione curiosa. «Signor Emerson, le piace questa nostra veduta?» «Non trovo mai una gran differenza fra una veduta e l'altra». «Non la capisco». «Perché?» «Perché sono tutte uguali tra loro. Perché tutto quello che conta in ognuna è la distanza e l'aria». Fece Cecil, incerto se l'osservazione fosse o non fosse singolare. «Dice mio padre», e George alzò gli occhi su di lei, era un po' acceso in volto, «che esiste soltanto una veduta perfetta, la veduta del cielo dritto sopra le nostre teste, e che tutte queste vedute sulla terra non sono altro che copie abborracciate di quella lassù». «Dal che deduco che suo padre abbia letto Dante», disse Cecil sfogliando le pagine del romanzo che solo gli permetteva di dirigere la conversazione. «Un'altra volta lui ci disse che in sostanza le vedute sono delle folle, folle di alberi e di case e di colline, e devono rassomigliarsi immancabilmente, come le folle umane, e che il potere che esercitano su di noi è qualcosa di soprannaturale, per la stessa ragione». Le labbra di Lucy si dischiusero. «Giacché una folla è più che la gente di cui è composta, vi si aggiunge qualcosa e nessuno sa in che modo, proprio come qualcosa è stato aggiunto a quelle colline». E George puntò la racchetta verso le dune del sud. «Che splendido concetto!» mormorò Lucy. «Sarà una gioia per me sentire discorrere ancora suo padre. Mi dispiace tanto che non stia troppo bene». «Sì, non sta bene». «In questo libro c'è una descrizione assurda di una veduta», dichiarò Cecil. «E poi lui disse che gli uomini rientrano in due categorie: quelli che dimenticano le vedute e quelli che le ricordano, anche in stanze di piccole dimensioni. Lei ha fratelli o sorelle, signor Emerson?» «No». «Perché?» «Poco fa ha parlato al plurale». Alludevo a mia madre. Cecil chiuse il libro con un tonfo. Oh, Cecil, che scossone mi hai dato. Non intendo infliggervi ulteriormente la compagnia di Joseph Emery Prank. Ho ancora chiaro il ricordo di noi tre che andavamo a passare la giornata in campagna e arrivavamo a vedere in lontananza. E questo è il mio primo ricordo. Cecil si alzò. Era uno screanzato il giovanotto. Non aveva neppure indossato la giacca dopo il tennis. Era assolutamente inaccettabile. Decise di battersela alla chetichella e l'avrebbe fatto se Lucy non l'avesse trattenuto. Cecil, da bravo, leggici quel pezzo sulla veduta. No, dal momento che c'è il signor Emerson apposta per solazzarci. Via, continua la lettura. Credo che non ci sia niente di più spassoso che sentire leggere delle sciocchezze a voce alta. Se il signor Emerson ci giudica frivoli, è padrone di andarsene. Questa battuta parve sottile a Cecil e ne fu compiaciuto. Metteva l'ospite nella posizione di un censore presuntuoso. Alquanto placato, tornò a sedersi. «Signor Emerson, vada in cerca di palle da tennis». Lucy aprì il libro. Non bisognava defraudare Cecil della sua lettura né di quant'altro potesse desiderare. Ma l'attenzione di lei si spostò sulla madre di George che, a detta del signor Eager, era stata uccisa al cospetto di Dio e che, a detta di George, era arrivata a vedere in lontananza, fino a Hindhead. «Devo andare davvero?» chiese George. «No, naturalmente, nessuno la obbliga», rispose Lucy. «Secondo capitolo», disse Cecil sbadigliando. «Trovami il secondo capitolo, se non ti secca troppo». Il secondo capitolo fu trovato, e Lucy diede un'occhiata alle frasi iniziali. Credette di impazzire. «Su, porgimi il libro!» Udì la propria voce che diceva: «Non vale la pena di leggerlo, è troppo sciocco, non ho mai visto simile robaccia, non si dovrebbe permettere che si stampasse». Cecil le tolse il libro di mano. Leonora, lesse, sedeva sola e pensosa. Dinanzi a lei si stendeva la fertile campagna della Toscana, punteggiata di tanti ridenti villaggi. Era primavera. La signorina Levish era venuta a sapere, ma come? E aveva pubblicato il passato in una sordida prosa, perché Cecil leggesse e perché George ascoltasse. «Una dorata foschia», lesse Cecil, e lesse ancora: «Lontano, lontano, le torri di Firenze, mentre l'argine su cui ella sedeva era tappezzato di violette. Affatto inosservato, Antonio sgattaiolò dietro di lei». Per evitare che Cecil la vedesse in faccia, Lucy si girò verso George e vide la sua. Cecil lesse. Non gli uscirono dalle labbra certe proteste verbose, quali sogliono usare gli innamorati cerimoniosi. Egli disdegnò l'eloquenza, e sì che non gli faceva difetto. Cinse semplicemente la fanciulla tra le sue maschie braccia. Ci fu un silenzio. «Non è questo il brano che cercavo», annunziò Cecil ai due. «Ce n'è un altro molto più buffo in seguito», e si mise a sfogliare le pagine. «Dobbiamo rientrare per il tè?» disse Lucy, la cui voce era rimasta ferma. Si incamminò per prima sulla salita del giardino, con Cecil alle calcagna e George che chiudeva la marcia. Credeva che si fosse stornato un disastro, ma quando furono entrati nella macchia, ecco che avvenne. Il libro, quasi che non avesse causato danni a sufficienza, era stato dimenticato vicino al tennis, e Cecil dovette tornare sui suoi passi per riprenderlo, e George, che amava appassionatamente, dovette inciamparle addosso sul viottolo stretto. «No!» disse Lucy ansimante. E per la seconda volta fu baciata da lui. Come se non fosse possibile nient'altro, George scivolò all'indietro. Cecil la raggiunse e arrivarono soli sul prato davanti alla casa. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.